davanti, mentre passava quel battaglione di moschettieri. Hai visto i volti? Rossi! E il sudore e la fatica. Mi fissavano con meraviglia. Avranno pensato che sono ridicolo, non credi? Nessuno ha sorriso, però. Fuori il cielo è così azzurro. Non si vedono più le montagne. Tutto finisce così miseramente. Di nuovo in attesa. Ancora per poco questa volta. Io non ho fretta. E tu? Voglio passare qui la notte. Si sta così bene. Si divertono di là. Cantano. Manca ancora molto? Dormirei volentieri adesso. Non ci sarà poi tutta questa strada da fare? Ancora. Per la fortezza? Cerco la fortezza. La fortezza Bastiani. Non c'è nessuna fortezza da queste parti. Ne assicuro. Le avranno dato un'informazione sbagliata. Possibile. Voi là? C'è nessuno? Di chi cerca, signor? La fortezza è questa. Saranno 10 anni che non c'è più nessuno. E dov'è? Cosa? La fortezza. Intende forse quella? Allora... Signore? Signore? Cosa c'è? Tenente Drogo, signore. Si avvicini. Non riesco a vederla bene. Mi permetta di salutarla. Capitano Orbitz, giovanotto. Non ho inteso bene a distanza. Drozo, mi pare? Drogo, con la G. Drogo Giovanni. Mi scusi se l'ho chiamata, ma attraverso la valle non riuscivo a vedere il grado. Sì, in effetti non si poteva vedere. E dove è diretto? Alla fortezza Bastiani. È questa la strada? Questa, sì. Effettivamente. Qualche messaggio? No, signore. Sono venuto a prendere servizio, sa, sono appena stato assegnato. In organico? Servizio di prima nomina. Ah, oh, in organico, allora. Bene, bene. Mi congratulo con lei, se crede. La ringrazio, capitano Ortiz. Per 2 anni? Come dice? Farai il solito servizio di 2 anni? Non saprei, il periodo non mi è stato detto. 2 anni e poi ve ne andate. Capita a tutti i tenenti di nuova nomina. Di regola per tutti. Si capisce. Per l'anzianità valgono 4. È questo che importa. Altrimenti nessuno lo domanderebbe. Ah, vuol di far carriera. Anche la fortezza ci si adatta, no? Certo. Proprio per tutti alla fortezza l'anzianità è doppia. Per tutti? Gli altri ufficiali. Figurarsi! Per i subalterni soltanto! Se no chi farebbe domanda per andarci? Ma io non ho fatto nessuna domanda. Non ha fatto domanda? No, ho saputo soltanto 2 giorni fa che ero stato assegnato alla fortezza. Strano. Strano, effettivamente. A meno che... A meno che? Non sia stato assegnato d'ufficio in mancanza di altre domande. Forse. Deve essere senz'altro così. Manca ancora molto? Come dice? Non ci sarà poi tutta questa strada da fare ancora? Per la fortezza? Non molta. Viene dall'Accademia Reale, no? Sì, signore. C'è ancora il colonnello Magnus? Il colonnello Magnus? E dica invece, il maggiore Bosco fa ancora scuola di tiro? Non saprei. C'è Zimmerman. Il maggiore Zimmerman. Sono passati molti anni dai miei tempi ad oggi. L'ho vista, sa? Cosa? La fortezza. Deve essere grandiosa, mi è apparsa immensa. Grandiosa la fortezza? No, no, è una delle più piccole. È una costruzione vecchissima. È da lontano che fa un certo effetto. vecchissima, completamente. Non è una delle principali? Figurarsi! È una fortezza di seconda categoria, un tratto di frontiera morta. Frontiera morta? Ma non da pensieri. Davanti c'è un deserto. Un deserto? Tutto pietre e terra secca. Lo chiamano il deserto dei Tartari. Perché dei Tartari? C'erano i Tartari? Oh, più che altro una leggenda. Nessuno è mai passato di là. E a cosa è servita allora la fortezza? A niente. E ci sono paesi vicino? Vicino? No. Ma non molto da divertirsi allora, mi immagino. Non molto da divertirsi, effettivamente. E non ci si annoia, signore? Ci si abitua. Io ci sono da quasi 18 anni. Anzi, no. 18 compiuti. 18? 18. Corbi! Ma fra tutti gli altri ufficiali che vengono a fare servizio di prima nomina, c'è qualcuno che poi si ferma? Pochi. Anzi, nessuno. Oh! Una volta la fortezza Bastiani era un onore. Adesso è più che altro una punizione. Un posto di confine è sempre un posto di confine. Effettivamente. Non capiscono che è una frontiera, ma è pur sempre una frontiera. E non si sa mai. Signore? Ma lo sai che cosa c'è di prim'ordine? Cosa? La cucina. Vedrà come si mangia alla fortezza. Benissimo, ho una fame. Non manca molto. Eccola. Deluso? Ci farà l'abitudine. Droso, mi pare! Drogo con la G, Drogo con Giovanni, tenente. Ho conosciuto suo padre anni fa, un gentiluomo, presidente dell'Alta Corte, se non mi sbaglio. Era medico, signore. Ah, certo, certo, medico, mi confondevo. Bene, benissimo. Mi compiaccio di vederla quassù, maggiore Matti! A dire il vero, signore, sono un po' confuso. Sa, ho famiglia in città e se possibile... Vuole dunque lasciarci prima ancora di essere arrivato? Non intendo discutere gli ordini, soltanto avrei... Ho capito! Beh, la fortezza l'immaginava diversa, adesso sono un po' spaventato. Ma è arrivato da pochi minuti, come fa a giudicare? Non ho assolutamente nulla contro la fortezza, soltanto avrei preferito rimanere in città o almeno lì nei dintorni. Questo glielo dico in confidenza, lei mi capisce? Certo, certo! Noi qui di Malavaglia non vogliamo nessuno, neppure l'ultima delle sentinelle. Lei mi sembra un bravo ragazzo. Mi dica, vorrebbe tornarsene immediatamente? Non può aspettare qualche mese? D'altronde per noi, le ripeto, è indifferente da un punto di vista formale, ben inteso. Già che devo tornare? Oh, si capisce, si capisce! Adesso le spiego. Se lei volesse partire subito, sarebbe meglio che si desse malato. Malato? Va all'infermeria, giusto un paio di giorni in osservazione, e il medico le fa il certificato. D'altra parte, molti a questa altezza non resistono. È proprio necessario? No, necessario no, ma semplifica tutto. Altrimenti deve fare domanda di trasferimento, scritta. La domanda va inoltrata al comando supremo, bisogna che risponda. Ci vogliono almeno 2 settimane. Se fossi lei, se proprio devo essere sincero, preferirei evitare. Il signor colonnello poi potrebbe dispiacersene. Il signor colonnello? Preferirei evitare, come se si facesse un torto alla sua fortezza. Se andarmene può danneggiarmi, allora è un'altra faccenda. No, non mi fraintenda, tenente. In nessun caso la sua carriera non avrà a soffrire. Si tratta solo, come dire, di sfumature. Se poi lei ha proprio deciso... No, no. Se come dice lei, allora è meglio il certificato medico. A meno che... A meno che? A meno che lei non si tratta di restare qui 4 mesi. 4 mesi? Mi sembra la soluzione migliore. Adesso le spiego. 2 volte all'anno a tutti viene fatto un esame medico. È prescritto, formalmente. Il prossimo sarà fra 4 mesi. Mi sembra la soluzione migliore per lei. Che il certificato sarà negativo, poi, se vuole, glielo garantisco io stesso. Può stare assolutamente tranquillo. Capisco. Il servizio qui non è faticoso. Quasi sempre servizio di guardia. Fatica e niente. Oh, non abbia paura. Avrà casomai da annoiarsi. Ho sentito dire che c'è un deserto su al nord. Un paesaggio monotono. Non c'è proprio niente di bello. Non potrei dare un'occhiata dalle mura? No! Mi chiede l'unica cosa che proprio non posso concederle. Sulle mura dei corpi di guardia possono andare solo i militari in servizio. Occorre sapere la parola d'ordine. Neanche in via eccezionale, ad un ufficiale. Ma nemmeno un ufficiale! Ah, capisco che a quelli della città questi sembrano dettagli ridicoli. Una cosa come la parola d'ordine non è poi un così gran segreto laggiù. Qui, invece, è un'altra cosa. E non c'è una feritoia o una finestra dalla quale poter guardare? Una sola. Nello studio del signor colonnello. Ma non vale la pena, le ripeto. Oh, avrà da stufarsi di quel panorama se si decide a restare. A ordine, signore. Non ci pensi. Un paesaggio noiosissimo, le garantisco. Arrivederci, tenente Drogo. Ehi. Psst. Di qua. Io? Certo. Venga. Qui! Avanti! È dietro a quelle rocce. Come? Lì in fondo vuole vederlo. Il deserto. Bisogna andare alla ridotta nuova. Quella laggiù. Da lì si vede tutta la pianura. Sassi! Sassi. Bianchi, come la neve. E basta. Di solito all'orizzonte si vedono le nebbie. Le nebbie? Del nord! Non lasciano vedere. Ma qualche giorno sarà anche sereno. Neppure d'inverno! Ma io ho visto. Visto che cosa? E le torri bianche. Le torri? È là che vengono fuori le nebbie! Ho visto! C'è anche una striscia nera. Foreste? Forse. O un sogno? Probabilmente. È meglio che io vada adesso. Block. Sono tutti gentili all'inizio, poi si dimenticano tutti. Ognuno ha le proprie occupazioni, basta appena a se stesso. Block. Ancora? È impossibile dormire. C'è troppo silenzio. È vasto il silenzio. Block. Per Dio, cos'è questo schifoso rumore? È la cisterna. La cisterna? È l'acqua, proprio lì dietro a quel muro. Block. Si lamentano tutti. Ma non si può far niente. Come farò a dormire adesso? Primo giorno di servizio? E ora? Presento Torm! È la guardia smontante. Sono qui da 22 anni. Così non va. Non si vede nulla da qui. È da pazzi. Che cosa? Dovrebbero farlo prima il cambio della guardia alla ridotta nuova. Ma il signor colonnello non vuole. Non vuole. Ma nessuno però gli ha spiegato il pericolo. Quale pericolo? Un giorno o l'altro, di notte, succederà qualcosa. E che cosa si dovrebbe fare? Una volta, alla ridotta nuova, il cambio della guardia si faceva 2 ore prima che alla fortezza. Sempre di giorno, anche d'inverno. E poi la faccenda delle parole d'ordine era semplificata. Occorreva quella per entrare nella ridotta e quella nuova per la giornata di guardia e ritorno alla fortezza. 2 bastavano. Poi hanno avuto paura. Paura? Era imprudente, dicevano, lasciare in giro, fuori dal confine, tanti soldati che sanno la parola d'ordine. È più facile che tradisca un soldato su 50 che un ufficiale solo. Già, ma non sarebbe più facile fare una parola d'ordine specifica per la ridotta nuova? La si insegna soltanto all'ufficiale, si fa prima il cambio della guardia, così i soldati non sanno niente. Sarebbe una soluzione. Ma bisognerebbe cambiare il regolamento. Il regolamento? Dice! La parola d'ordine dura 24 ore da un cambio della guardia successivo! Una sola parola d'ordine vigila la fortezza e sue dipendenze! E sue dipendenze? Parla chiaro, non c'è da fare nessun trucco. Ma una volta il cambio alla ridotta nuova si faceva prima. Sicuro? È soltanto 2 anni che c'è questa storia. Prima era molto meglio. La fortezza è malinconica. Nessuna distrazione, nessuna allegria. Lo squallore delle mura, quell'aria vaga di punizione e di esilio. Si poteva tornare. Certo. Ma per la carriera. Allerta. Pare più una specie di lamento. Dormi ignaro al momento e sorridi nel sonno, come fanno i bambini. Passeranno i giorni prima che tu capisca che cosa è successo. Avrei bisogno di un mantello. Un mantello? Da non spendere troppo, però basta che duri 4 mesi. 4 mesi? Poi tornerò in città. Anch'io da un giorno all'altro aspetto di partire. Davvero? Davvero? Se non fosse per il signor colonnello che non vuole lasciarmi andare. Sono 15 maledettissimi anni che ripete la stessa storia. Non capisco. Sono qui in via assolutamente provvisoria. E invece non si muoverà mai. Molti altri resteranno qui fino a crepare. È una specie di malattia. Stia attento. Stia attento finché in tempo. Stare attento a cosa? Ad andarsene appena può. Io non ho intenzione di rimanere. Io starò qui solo per 4 mesi. Si preparano grandi eventi, ha cominciato a dire il signor colonnello. Questa è la sua frase. Saranno 18 anni. Si è messo in testa quella fortezza importante. Che deve succedere qualcosa. Vuole dire una guerra. Una guerra! Una guerra? Beh, può darsi. Dalla parte del deserto. Dalla parte del deserto, probabilmente. Ma chi? Chi dovrebbe venire? E cosa vuole che ne sappia io? Ma non verrà nessuno, si capisce. Ma il colonnello dice, ha studiato le carte, che ci sono ancora... I tartari, dice. I tartari? Il resto di un esercito antico che scorrazza su e giù. Allora sta zitto e pensa che siano tutte storie, lo vedo. Stia attento! Anche lei finirà per restare. Nidificano e le rondini se ne vanno. Lei forse non lo sa, signore, ma io sono qui venuto per sbaglio. Tutti sono venuti qua su per sbaglio, chi più, chi meno. Anche quelli che ci sono rimasti. Ci penso anch'io qualche volta. Non poteva farsi trasferire? Troppo tardi. Bisognava pensarci prima. Mi sembra ieri che sono arrivato alla fortezza. Quanto fosse complicata e immensa la fortezza. Le mura, giallastre del cortile, sembrano levarsi altissime verso il cielo di cristallo. E ancora più in alto, al di sopra di esse, mi sembra di vedere torri solitarie, muraglioni schempi, aerei spalti, fortini, che non avevo mai notato prima. La notte avanza grande dalle montagne, con le nuvole in fuga sopra la fortezza. Miracolosi presagi. E dal nord, dal settentrione invisibile dietro le mura, sento premere il mio destino. Io sto bene. Le ha detto questo il medico? Che lei sta bene? Io sto bene! E voglio restare. Restare? Qui alla fortezza, ma non vuole più partire. Non lo so, ma non posso. È uno scherzo. No, gli ho detto di stracciare il certificato. Così doveva accadere. Mi sono abituato ormai. È la fuga del tempo. È una mia impressione, questa notte la luna è molto più larga del solito. Qui alla fortezza fa sempre questa impressione. Quanto tempo davanti. La vita sembra inesauribile. Eppure esistono uomini, strano a dirsi, che a un certo punto si mettono ad aspettare la morte. Qualcuno canta. È proibito il servizio. È solo il vento. Crediamo che attorno ci siano creature simili a noi. Invece non c'è che gelo, pietre che parlano una lingua straniera. Alleta! Alleta! Che cosa è stato? Niente, drago! Devo avere gli occhi stanchi, a forza di guardare ho gli occhi stanchi. Ma mi sembra di vedere delle macchie. Comandi, tenente? Non mi vorrei sbagliare, ma mi pare che ci sia qualcosa che si muove laggiù in basso. Sì, signore. È già parecchi minuti che lo sto osservando. Lo vede anche lei? Ero sceso da basso per controllare la pulizia dei cannoni. Poi sono salito qui e l'ho vista. Cosa credete che sia? Non si capisce bene. Si muove troppo adagio. Come troppo adagio? Ho pensato potessero essere i ciuffi delle canne. Ciuffi? Che ciuffi? C'è un canneto lì in fondo. A volte il vento li spezza e siccome sono leggeri volano via. Ma non può essere. Si muoverebbero più svelti. E allora? Uomini. Verrebbero da un'altra parte. E poi continua a muoversi ancora. Non si capisce. Sarà la nebbia. C'è sempre stato quel coso nero lì. È un sasso nero. Ma ecco il sasso. Ma non vedi che continua a muoversi? Sei loco. Dovremmo dare l'allarme alla fortezza. L'allarme? Le pare ci sia da dare l'allarme? Aspettiamo di vedere meglio. E se si spara la fortezza si metteranno in agitazione. E se poi non c'è niente? E poi sarebbe anche contro il regolamento. Già. Dice, in caso di minaccia, proprio così dice, di comparsa di reparti armati in tutti i casi in cui persone sospette si avvicinino a meno di 100 metri dai confini delle mura, bisogna dare l'allarme. E saranno più di 100 metri. Ma dico anch'io. E poi chi ci dice che sia una persona? E cos'altro potrebbe essere? Uno spirito. Signor tenente, è un cavallo. E da dove è giunto? Sono anni che nessuna creatura si avventura più in questi luoghi. Ne avevo mai visto uno selvatico negli ultimi 2 anni? 2 anni? Beh, quasi. È ormai 22 mesi che lei è qui. 22. Il tempo fugge quando si rimane fermi ad aspettare. L'esistenza si ferma. Il sole corre ansioso di tramontare. E le notti paiono lunghissime. Li sentite? I dardi. Appiattati fra i cespugli, nelle spaccature delle pietre, immobili e muti. Aspettano il buio per attaccare. Il cavallo deve essere fuggito ai nemici. E corso avanti a tradirli. Ma di quanto li precederà? Dobbiamo dare l'allarme. No. Ma è solo un cavallo. E poi i cavalli dei tartari sono quasi tutti bianchi. Questo è nero come il carbone. Dimentichiamo le paure notturne. È l'ora dei cambi della guardia. Non si vede più, deve essersi nascosto dietro quel pietrone. Già. Quindi... Non lo dica! È di malaugurio. Mi sembra che ci sia una piccola striscia nera che avanza. È un sogno. Nel sogno... c'è sempre qualcosa di assurdo e confuso. Non ci si libera mai del sogno. Della convinzione che è tutto falso. E ci si dovrà svegliare. Prima o poi. Il cielo è più rosso e intenso. A occidente si vede ancora una striscia di luce. Sopra le montagne. Coraggio. Non si combatte per tornare coronati di fiori in un mattino di sole fra i sorrisi delle giovani donne. È una ben più dura battaglia di quella un tempo sperata. Persino vecchi uomini di guerra preferirebbero non provare. Coraggio. Nessuno ti chiamerà eroe. Proprio per questo vale la pena. E se fosse un inganno? Se il coraggio non fosse che un'ubriacatura? Pare che ci siamo questa volta! Se ne vedrà arrivare altri ora! Arriva! Signore! finalmente giunta l'ora che aspettavamo da tanti anni. Signori ufficiali, c'è stata una certa eccitazione, anche fra voi se non mi sbaglio, a motivo di reparti avvistati nella cosiddetta pianura dei Tartari. Si tratta... Permettetemelo? Si tratta delle parti dello Stato del Nord incaricate di stabilire la linea di confine. Come fatto da noi molti anni indietro. Essi perciò non giungeranno dalla parte della fortezza. Si disperderanno in gruppi scagliandosi per le montagne. Così comunica, ufficialmente, Sua Eccellenza il Capo di Stato Maggiore. Da 4 anni, signore. Io alle volte penso, noi desideriamo la guerra. Aspettiamo l'occasione buona. Ce la prendiamo con la sfortuna. Ma perché non succede mai niente? Io credo che domani nevicherà più alla fortezza. Probabile. Nevicherà. Continuano a passare corvi. La colpa è anche nostra. Come dice? Ci tocca sempre quello che si merita. Forse pretendiamo troppo. E allora cosa dovremmo fare noi? Oh, io niente. Io ho aspettato anche troppo. Ma lei... Io che cosa? Lei è giovane. Se ne vada. Torni laggiù, in città. Non mi sembra il tipo da disprezzare i piaceri della vita. Non si è poi nati tutti per fare gli eroi. Lei ha già lasciato passare 4 anni. Ha accumulato un certo vantaggio per l'anzianità di carriera, mettiamo pure. Ma pensi quanto più le sarebbe servito starsene in città? Io vorrei pure, ma nessuno si ricorda più di lei. È rimasto tagliato fuori del mondo. Ritorni finché in tempo. Ho fatto un sogno. Un sogno. Dormivo, ignaro, e ridevo nel sonno, come fanno i bambini. Poi mi svegliavo. Guardavo attorno incredulo. Sentivo come un trepestio di passi sopraggiungere alle mie spalle. Gente, risvegliatasi prima di me, correva affannosa e mi superava per arrivare in anticipo. Sentivo il battito del tempo scandire avidamente la vita. Alle finestre non c'erano più figure ridenti, ma volti immobili. Io chiedevo, manca ancora molto! Loro mi indicavano l'orizzonte, ma senza alcuna bontà o letizia. Qualcuno rimaneva indietro, sfinito. Altri invece fuggivano avanti e non erano più che un minuscolo puntino all'orizzonte. Continuavo a chiedermi se sarebbe presto finita, se sarei arrivato. E invece no. Le giornate sempre più brevi. I compagni di viaggio radi. Alle finestre. Soltanto volti apatici che scuotono il capo. Sono completamente solo. Ed ecco, all'orizzonte, la striscia di uno smisurato mare. Immobile. Colore del biondo. E dietro di me il buio. E ci sono passato davanti senza sapere. È troppo tardi per ritornare. E dietro di me aumenta il rombo della moltitudine che mi seguiva. Sono spinta dalla stessa illusione. Ma ancora invisibile sulla bianca strada deserta. Ne ho già visti altri, sa. A poco hanno preso l'abitudine alla fortezza. Sono rimasti imprigionati qui dentro. Non sono stati più capaci di muoversi. Lei è giovane e lo sarà ancora per molto, è vero? Ma io non mi fiderei. Altri 2 anni soltanto e tornare indietro. Le costerebbe troppa fatica. Ma in fondo qui alla fortezza si può ancora schierare in qualcosa di meglio. Per lei sarà assurdo, ma se è sincero deve avere... Forse sì. Purtroppo, tutti ci ostiniamo a sperare. Ma basta pensarci un poco per capire che è assurdo! Da questa parte mai più potrà venire una guerra, ma chi volete che ci creda sul serio? I giorni corrono via, uno dietro l'altro. Continui pure a sognare e a sorridere nel sonno. Guai, guai, se potesse vedere se stesso come sarà un giorno là, dove la strada finisce, fermo, sulla riva del mare di piombo, sotto un cielo grigio e uniforme, e tutto intorno, né un albero, né una casa, né un uomo. Tutto così, dal memorabile tempo. Il sole non corre più via come prima. Inizia a fermarsi un po' in mezzo al cielo. Non ci sono più corvi riuniti sul pianoro della fortezza. Corri allora, cavallino. Corri per le strade della pianura prima che sia troppo tardi. Non fermarti, anche se stanco. Tornare indietro sarebbe troppo pericoloso. Allora addio, fortezza. Il tuo facile mistero è caduto. La pianura del nord continuerà a rimanere deserta. Mai più arriveranno i nemici. Allora addio, capitano Ortiz. Melanconico amico che non è riuscito a staccarsi da queste mura. Troppo a lungo vi siete ostinati a sperare. Il tempo è stato più veloce di voi. Non potrete mai ricominciare. Io invece sì. Non pensarci più, Drogo. Corri allora! Non voltarti indietro proprio ora che sei giunto sul ciglio del pianoro. La strada sta per immergersi nella valle. Sarebbe una stupida debolezza. Il cavallo trotta allegramente. La giornata è buona, l'aria tepida, la vita ancora lunga davanti, quasi da cominciare. Non voltarti! Ma che motivo avresti di dare un'ultima occhiata a queste mura? Una pagina lentamente si volta, aggiungendosi a quelle già finite, ma quelle ancora da leggere. Sono un mucchio inesorabile. Eppur sempre un'altra pagina consumata, tenente Drogo! Una porzione di vita. Ploc. Ecco quell'antico odore domestico. Familiare, dopo tanti anni. La casa pare vuota rispetto a un tempo. La camera è rimasta identica. Neppure un libro fuori posto. E la mamma? Come due estranei. I passi notturni del figlio non la destano più come un tempo. Ma i fratelli? Partiti. Straniero per la città. In cerca di vecchi amici. Tutti lontani. Ploc. Solo. Sui marciapiedi, con tante ore vuote davanti prima di far venire la sera. La notte sarebbe stata ancora lunghissima, uno spazio di tempo pressoché illimitato. E un'impressione amara, Maria. Deve essere una gran noia lassù. Quasi l'affetto di un tempo si fosse appannato. Perché mi guardi così? Nulla più come prima. Parto per l'Olanda. Ploc, tutte le cose che nutrivano la vita di un tempo si sono fatte lontane. Un posto di altri, dove non c'è più un posto. Ploc. Facce nuove, abitudini nuove. Quella non è più vita. Tornare indietro sarebbe stupido e vano. Ploc. Nei presidi lontani che si impara a fare i soldati. Eccellenza, io ho già fatto 4 anni. E cosa vuole che siano 4 anni? Alla sua età? Cercheremo comunque di accontentarla, tenente. Ho giusto qui la sua pratica. La fortezza. La fortezza Bastiani. Lo sa lei, tenente Drogo, qual è il debole della fortezza Bastiani? Non saprei. Troppo isolata, forse. Isolata? Che strane idee vi fate voi giovani. Vuole che glielo dica io? C'è troppa gente. Troppa gente. E proprio per questo è stato deciso di cambiare il regolamento. Che ne pensano a proposito quelli della fortezza? Non la seguo, perdoni, eccellenza. Del nuovo regolamento, le ho detto. Mai sentito dire, davvero mai? Ah, forse la comunicazione ufficiale non è stata fatta. Pensavo lo sapesse lo stesso. In genere i militari sono maestri nel sapere per primi le cose. Un nuovo regolamento, dunque? Una riduzione di organico. C'è troppa gente. Bisogna sveltirla, questa fortezza. Manca proprio, mi pare, la sua domanda di trasferimento. La mia domanda? Dopo 4 anni? Ma in genere non occorre, ma siccome questa volta c'è una così grossa riduzione di organico e tutti vogliono andarsene, bisogna proprio badare alla precedenza. Ma nessuno lo sa, la fortezza. Nessuno ha mai fatto domanda. Da quel che leggo qui siamo già una ventina. Una? È uno scherzo. Perdoni se insisto, eccellenza, ma io ho già fatto servizio per 4 anni ininterrotti. Servirà qualcosa di più che una semplice precedenza formale. I suoi 4 anni non sono niente in confronto a tanti altri che sono lassù da una vita intera. Non posso proprio venir meno alla giustizia. Allora io rischio di restare lassù per tutta la vita. Io cercherò di fare il possibile. Ho anche consentito a riceverla personalmente. Ma adesso... Certo, se lei avesse fatto domanda un mese fa, strano che non fosse informato. Uno svantaggio notevole, certo. Addio, tenente. E su, allegro. Novità? Lei si ricorda, capitano Ortiz, che quando sono venuto qui alla fortezza, 4 anni e mezzo fa, il maggiore Matti mi aveva detto che qui rimanevano soltanto i volontari, ma che se qualcuno voleva andarsene era liberissimo di farlo. Ricorda che glielo avevo raccontato? Sì, vagamente, Vittor. Bastava che io facessi un certificato medico, una semplice richiesta formale. Caro Drogo, un minuto, signore! Solo un minuto! Lei si ricorda che per non fare cosa sgradita, mi sono adeguato a rimanere qui per 4 mesi, ma che se volevo andare ero liberissimo di farlo. Drogo, lei non è il solo. Erano tutte storie allora. Non è vero che potevo andarmene. Non si metta in mente questo. È successo anche a me, sa? Presso poco. Anch'io allora sognavo una brillante carriera. Non è vero allora che tutti gli altri ufficiali sono venuti qui tramite domanda. Tutti obbligati a restare, come me. E quelli che dicevano loro di voler restare erano tutte storie. Perché nessuno ha avuto il coraggio di dirmi? Forse le cose non sono proprio come dice lei. Qualcuno c'è stato che ha preferito rimanere. Pochi, ma qualcuno c'è stato. Chi? Mi dica chi! Perdoni, signore. A lei non avevo pensato, sa com'è quando si parla. Ah, ma non lo dicevo per me. Probabilmente... Anch'io sono rimasto qua sull'ufficio. E tutte quelle storie sui tartari? Non è che qualcuno ci sperasse davvero, allora? Altro che se ci speravano. Ci credevano. Effettivamente. Non ci capisco più nulla, parola. Sono storie complicate. Quassù. È un po' come l'esilio. Bisogna pur trovarlo qualche sfogo. Bisogna ben sperare in qualche cosa. Ha cominciato uno a mettersi in mente. Si sono messi a parlare dei tartari. Chissà chi è stato il primo. A forza di guardare quel deserto. Quel deserto? Quelle nebbie, quelle montagne, non si può negare. I tartari! All'inizio sembra una stupidaggine, poi si finisce col crederci lo stesso. A qualcuno è capitato così. Effettivamente. E lei, signore? Lei ci crede? Oh, ma la mia è un'altra cosa! Io ho un'altra età. Io non ho più quell'età. A me basta un posto tranquillo. Ma lei... Lei è giovane! Ha tutta la vita davanti! Un anno! Un anno e mezzo, Massimo. E sarà trasferito! Cosa è stato? Laggiù! Non vorrei... potrei sbagliarmi. Guarda tu prima e dimmi se vedi qualche cosa. È una macchia nera quella, signori. Sono 5 giorni che l'ho vista, ma non volevo dirlo a nessuno. Sarà come l'altra volta, una pattuglia di ricognizione o dei pastori. Oh, se fossero dei pastori sarebbero andati via. C'è qualcosa che si muove, ma rimane presso poco sempre nello stesso punto. Figurati se viene ancora qualcuno, eh? Non ti è bastata l'ultima volta? Ma se fosse miope, hanno cominciato a fare una massicciata! Una volta ti avrei anche creduto, ma adesso... mi sembri proprio un illuso. Fossi in te me ne starei zitto, o inizieranno a riderti dietro. Vieni a vedere! A meno che non abbia le allucinazioni, vedo una luce... Ma servo io! Guarda, ti dico, guarda dove ti ho mostrato l'altra volta! E dimmi se vedi qualche cosa. Una luce. Te l'ho detto! A volte mi sembra che siano diverse, altre invece... Una sola. Adesso mi sembra di vedere due lumi. Visto? Sono io il cretino ora. Che cosa potranno significare quei due lumi? Forse sono un accampamento di zingari o dei pastori. È la luce del cantiere. Il cantiere della nuova strada! Vedrai se non ho ragione! E tu credi che se facessero una nuova strada per portare le artiglierie dal nord, lo Stato Maggiore lascerebbe la fortezza sguarnita? Lo Stato Maggiore non la prende mai sul serio. La fortezza Bastiani. Ammetti che se l'ombra si fosse spostata non si potrebbe dimostrarlo con sicurezza. Vedrai se non ho ragione. Osserverò quei puntini ogni giorno. Vedrai che poco a poco vengono avanti. Non ho intenzione di discutere. 6 mesi! Perché la strada si avvicina a tiro di cannone della fortezza! 6 mesi! Potrebbero diventare 7 o 8 o molti di più! Potrebbero incontrare degli ostacoli! Ostacoli? Si capisce. Le piogge, la neve, complicazioni di carattere politico. E se quella strada non avesse nessun carattere offensivo, ma scopi agricoli, ad esempio? Il deserto è troppo pietroso per essere coltivato. E se quella striscia nera fosse una semplice piega del terreno? Magari quei lumi e quelle macchie sono sempre stati lì e nessuno li ha visti perché nascosti dalla nebbia. 6 mesi! 8 massimo. Ancora 10 anni e poi me ne vado in pensione. E dopo? E dopo basta. Aspetterò ancora. Non si vede più nulla di sospetto. Lei pensa che... Una guerra. Dopo 15 anni pensa ancora a una guerra. 15 anni. E va bene, ho sbagliato. Ma sono di qualche mese. Vedrete se non ho ragione. Il tempo si è messo a correre sempre più veloce, inghiottendo sugli altri giorni. Il tempo corre! Il suo battito silenzioso scandisce sempre più precipitoso la vita! Non ci si può fermare, neanche un minuto, neppure per un'ultima occhiata indietro! E non serve a niente aggrapparsi alle pietre, resistere in cima a qualche scoglio! Le dita stanche si aprono, le braccia si afflosciano inerti e si è ancora trascinati nel fiume. Che pare lento, ma non si ferma! Mai. Le ore mi passano di sotto prima che riesca a contarle. 15 anni. Sono volati via come un sogno. Ma le montagne non hanno fatto nulla. E anche i bastioni della fortezza non hanno fatto un perché. Ma per gli uomini sono stati un lungo cammino. Anche se non si sa come siano passati così veloci. Manca ancora molto! Il futuro si è terribilmente accorciato. Signore! Signore! Cosa c'è? Signor capitano! Ortiz non c'è più da un pezzo, soldato. Io mi riferivo a lei, capitano. Vero, dimenticavo. Drogo, capitano Drogo. Tenente Moro, signore. Si avvicini, non riesco a vederla bene da lì. Messaggi. Nulla, signore. Desideravo solo salvarla. Non ho capito bene a distanza. Modo, ti pare? Moro, con la R. Mi scusi se l'ho chiamata, sa? E dov'è diretta? Alla fortezza Bastiani. È questa la strada? Questa, sì. Effettivamente. Grazie, capitano Trogo. Una pagina lentamente si volta. Passano mesi, anni. Altro che anni. Secoli passeranno e non basta. Dal nord non verrà più nessuno. E io continuo ad aspettare. Ho 54 anni. Il grado di maggiore e il comando in seconda del magro presidio della fortezza. Il deserto è sempre più vuoto. Nulla lascia presagire ad un'avanzata nemica. Tutto sembra ricominciare da capo. Due reggimenti di rinforzo. Ho mandato un protone alla detta nuova, ho fatto bene? Sì, sì, hai fatto bene. Il cannocchiale, signori, dammi il cannocchiale. Sei pallido? Come va? Domani spero di riuscirvi ad alzare, così potrò aiutarvi. Oggi arriveranno i primi rinforzi. Sono venuti avanti. Ho una buona notizia. Che notizia? Oggi pomeriggio arriverà una magnifica carrozza a prenderti. Una carrozza? Perché a prendermi? Non vorrei restare in questa stanzaccia tutta la vita. In città ti correranno meglio e non darti pensiero per cui il più ormai è passato. Avresti dovuto dirmelo almeno. Non agitarti, per carità. Io non mi muovo, io resto qui, sono meno malato di quanto pensiate. Se ti agiti sarà anche peggio. Tu lo sai che qui alla fortezza si è rimasti tutti per questa speranza. È difficile da dire, ma se non fosse stato per questa possibilità... Non capisco. Tu devi capire. Sono più di 30 anni che aspetto. Ho lasciato andare molte occasioni, tutto per questi nemici. Tu non puoi pretendere di io che me ne vada. Ho diritto di rimanere. Ormai la carrozza è in viaggio. Senti. Ti mando il tuo tenente. Per le due la carrozza sarà qui. La carrozza si è fermata. Proprio qui davanti, mentre passava quel battaglione di moschettieri. Hai visto i volti? Rossi, per il sudore e la fatica. Mi guardavano con meraviglia. Avranno pensato che sono ridicolo, non credi? Nessuno ha sorriso, però. Il cielo è così scuro. Non si vedono più le montagne. La fortezza è lontana. Per 30 anni ho aspettato. Il nemico. Tutto finisce così miseramente. Di nuovo in attesa. Per poco però questa volta. Io non ho fretta e tu? Passerei volentieri qui la notte. Si sta così bene. È il posto migliore per ritrovare un po' di sonno mancato. Si divertono di là. Cantano. Chiediamo di poter conservare intatto una felicità, scomparsa per sempre, e trattenere la fuga del tempo. Manca ancora molto. È stata così lunga l'attesa. Dormirei volentieri adesso. Non ci sarà poi tutta questa strada da fare. capita. Vai incontro alla morte da soldato. E che la tua esistenza almeno finisca bene. Vendicati della sorte! Coraggio! Nessuno canterà le tue lodi. Nessuno ti chiamerà eroe. Proprio per questo vale la pena. E se fosse tutto un inganno? Se il coraggio non fosse che un'ubriacatura? Se dipendesse soltanto da quel magnifico tramonto? Dall'aria profumata? Dagli anti? Di là. No, no, Drogo, no! Adesso basta tormentarsi. Il più è fatto ormai.